Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutte, da Olga e Alessia. Questa settimana Van Loon vi porta non alla scoperta, ma alla riscoperta di un anniversario del calendario civile. Se ne è parlato molto la settimana scorsa e quindi anche noi abbiamo deciso di farci una puntata. Il 23 marzo del 1919, a Milano, nella piazza di San Sepolcro, venivano fondati i fasci di combattimento. Se ne è parlato molto questa settimana, nel bene e nel male. E ci accorgiamo che quando se ne parla non si ha ben precisamente in mente che cosa significa fascismo, come è nato il fascismo. Lungi da noi in una puntata pretendere di spiegare un fenomeno così complesso, ma una cosa abbiamo voluto fare. Abbiamo invitato in puntata due dei curatori di un ebook che è uscito proprio il 23 marzo per la Fondazione Feltrinelli. L'ebook si chiama Impresa diretta, la costruzione del fascismo raccontata in tempo reale, 1919-1925. I curatori sono Alessia Masini, Nicolò Panaino, Jacopo Perazzoli e Sara Troglio. Sono tutti giovani storici della Fondazione Feltrinelli e noi abbiamo in studio Alessia Masini, che è la nostra Alessia, e Nicolò. Questo è un ebook scaricabile gratis sul sito della Fondazione Feltrinelli e loro ci racconteranno perché hanno avuto l'esigenza appunto di pubblicare questo volume a 100 anni dalla nascita dei fasci di combattimento. Il volume è molto interessante perché ci racconta appunto in presa diretta, quindi con dei documenti che per noi sono fonti, ma allora erano degli scritti, dei saggi, degli articoli giornalistici, che cosa è significato per i protagonisti di allora vedere la nascita dei fasci di combattimento. Quindi abbiamo la contrapposizione tra i protagonisti, che poi saranno antifascisti, come Gramsci, Salvemini, Anna Kuliscioff, Enrico Malatesta, Camillo Berneri, e dall'altra parte quello che scrivono gli altri protagonisti fascisti, in questa contrapposizione ideale che ecco, ci ha fatto veramente riflettere. Noi tra poco avremo in studio Niccolò e Alessia, che è qui con me su Radio Città Fucico, e nel frattempo ci ascoltiamo una canzone. Speaking words to the blind. Speaking words. Bentornati sulle frequenze di Radio Città Fujiko, questa è Vallun ed è la vostra mezz'ora di storia. Come vi abbiamo già detto nell'introduzione, abbiamo con noi un ospite, Nicolò Panaino, che è uno dei curatori insieme alla nostra Alessia Masini dell'ebook uscito la settimana scorsa per la Fondazione Feltrinelli. L'ebook si chiama Impresa Diretta. La costruzione del fascismo raccontata in tempo reale, 1919-1925. Ecco, ciao Nicolò, grazie per essere qui con noi. Ciao a tutti, grazie mille a voi per l'invito. Allora, senti, io, siccome il tempo è poco, partirei subito con le domande. E ti faccio una domanda forse un po' banale, ma magari tu mi puoi rispondere. Sì. Ti chiedo, perché... A parte i 100 anni, no? Dalla nascita dei fasci di combattimento, che sappiamo è stato il 23 marzo 19, a parte sì. Il calendario civile, perché avete sentito voi curatori l'esigenza appunto di scrivere questo libro? Beh, allora, anzitutto siamo partiti da una constatazione importante appunto nello scenario contemporaneo, il fatto che appunto il fascismo sia estremamente evocato nei nostri tempi, ed è stato evocato anche da 70 anni a questa parte, quindi appunto abbiamo avuto l'evocazione del fascismo alla fine degli anni 70, quando appunto il PC accusava i movimenti giovanili e studenteschi di diciannovismo e di fascismo, e avvicinandoci anche a tempi più prossimi ai nostri, c'è stata appunto tutta la definizione o comunque l'associazione del fascismo ai governi di berlusconiani, quindi dal 94 in poi. Quindi quella del fascismo è un'evocazione costante, e ciò che io, Alessia, Sara Troglio, Jacopo Perazzoli abbiamo provato a fare in questo volume è quello di non porci a guardare il fascismo come un eterno ritorno, ma indagare appunto che cosa stia dietro ai fenomeni di oggi. E appunto abbiamo visto che c'è un meccanismo quasi di autoassoluzione oggi per quanto riguarda il fenomeno del fascismo, e quindi oltre a questo fenomeno di autoassoluzione c'è dietro un meccanismo di incomprensione anche dei fenomeni che avvengono attualmente. Quindi abbiamo sfruttato anche da calendario civile la ricorrenza, il centenario della, come tu hai giustamente ricordato, della fondazione dei fasci di combattimento a Milano in Piazza San Sepolcro, per costruire questa operazione culturale, quindi andare a vedere il fascismo nei suoi primi 5 anni, e abbiamo insieme ad Alessia, Sara e Jacopo abbiamo visto che tutti quei fattori che sono nati, che sono appunto germogliati in quegli anni, poi diventano elementi strutturali nel fascismo. Quindi la crisi dello Stato, il fascismo come rivoluzione conservatrice o conservazione rivoluzionaria dal punto in cui si vuole vederlo, e l'aspetto conflittuale delle generazioni, inevitabilmente appunto... Sono tutti degli aspetti che poi restano innervati nel fascismo come ventennio. Certo. Io ti stoppo per chiederti un'altra cosa, anzi la chiedo sì. Anche Alessia. Nell'ebook voi proponete quelle che per noi adesso sono fonti, ma sono testi dell'epoca, quindi tra il 21 e il 25, e mettete a confronto testi di antifascisti e testi di fascisti. In generale, dico, senza entrare nel merito, e questo magari mi risponde anche Alessia, il fascismo è preso sotto gamba dagli antifascisti? Ma guarda, quello che abbiamo un po' constatato, perché poi per noi è stato un percorso di ricerca, io vengo anche da una formazione, sì, storica, però non sono proprio una storica del fascismo, diversamente dalle competenze invece che ha molto di più Nicolò, come gli altri Sara e Jacopo. Quindi in realtà è stata invece, proprio dal mio punto di vista, proprio questo percorso di scoperta del fatto che gli antifascisti all'epoca considerassero il fascismo un fenomeno passeggero transitorio, cioè molti credevano che fosse solo un effetto di una contingenza legata proprio alla crisi economica, principalmente la crisi delle istituzioni liberali, però allo stesso tempo appunto sarebbe rientrata come se la democrazia fosse capace e forte di autorigenerarsi naturalmente. Io credo che questo sia però veramente una... c'è una tendenza spesso dalle forze politiche democratiche che ritorna, e questo è l'eterno ritorno forse più pericoloso rispetto a quando ci troviamo di fronte a pericoli di involuzioni autoritarie o ci siamo trovati in passato in situazioni di crisi economica che magari hanno determinato spesso il successo di forze di destra o populiste. Quindi dal mio punto di vista, proprio mi sono dal focus che abbiamo fatto, in particolare nel primo di cui mi sono occupata io, sulla crisi dello Stato, lì ho proprio notato un'incapacità anche della classe dirigente liberale di veramente affrontare il fascismo e capire qual era la sua vera natura e arginarlo. In realtà invece, secondo il mio punto di vista, che però ho dedotto un po' da Giovanni Sabatucci, che l'ha studiato in modo approfondito, è il fatto che appunto tra la classe dirigente liberale ci fosse una sorta di fatalismo ottimistico, al contrario chi invece aveva capito bene cosa stava succedendo erano pochi, ma l'avevano fatto in modo molto lucido, e sono appunto Giovanni Amendola, che fu il primo a parlare di spirito totalitario, nonostante fosse ancora il primo fascismo, quello non della dittatura, e poi l'altro è Giacomo Matteotti, appunto, che aveva riconosciuto il processo di fascistizzazione della società. Io ho visto sull'ebook, Niccolò, che c'è anche un apparato iconografico. Sì, esatto. Ci racconti un po', tu che l'hai curato... L'ha fatto anche molto bene, perché Niccolò ha fatto un gran lavoro di ricerca, ecco, lì. Magari dico per esperienza, se pensiamo a dei libri di storia non ci viene proprio in mente, no, di pubblicare un apparato iconografico, invece scopriamo che è importante. Sì, è importante, e abbiamo agito con lo stesso spirito con cui abbiamo costruito l'ebook. L'ebook è un'antologia di testi, quindi, come giustamente ha detto Alessia, abbiamo cercato di far dialogare tra di loro, nei testi che abbiamo riportato dall'originale, voci antifasciste con voci fasciste. E abbiamo voluto fare la stessa identica cosa con l'apparato iconografico, quindi abbiamo accostato delle vignette di due quotidiani. Il primo quotidiano è Il Popolo d'Italia, quindi fondato da Benito Mussolini. Il secondo invece è L'Asino, una rivista di satira politica vicino appunto al Partito Socialista, e quindi abbiamo cercato di vedere appunto il fascismo graficamente, ecco, di costruire il fascismo come fenomeno appunto anche grafico, e i risultati sono stati interessanti, anche perché l'apparato iconografico non è stato messo nell'ebook solamente come impatto, diciamo, a semplice funzione visiva, ma le vignette sono anche loro, costituiscono delle fonti storiche, e come tutte le fonti storiche devono essere ovviamente analizzate con un certo criterio, con una certa oggettività. Adesso, lungi dal fare l'analisi ad ogni singola vignetta che abbiamo inserito, possiamo dire che posso prendere appunto, visto che nella sezione che ha curato Alessia, Crisi dello Stato, c'è una vignetta del Popolo d'Italia, un altro, che si intitola Un altro conto saldato, dove c'è Mussolini che tira un pugno, diciamo, a una piccola pulcinella stilizzata, appunto con la piccola iscrizione Camera dei Deputati. E quindi in questa vignetta c'è un po' tutto, la vignetta di Mario Sironi, c'è un po' tutto il fascismo grafico, possiamo dire, proprio perché si rivede in quella vignetta sia la violenza, sia il linguaggio violento, ma anche, come si può dire, la negazione dell'altro, Quindi c'è un linguaggio violento che è proprio teso a negare i diritti dell'altro, è teso proprio a stilizzarlo anche in una maniera, in un modo ovviamente che non porta acqua al suo mulino, ecco, certamente. Una caratteristica questa che viene anche utilizzata nelle vignette satiriche dell'asino, che ovviamente fanno della satira e cercano di mettere in risalto tutti quegli aspetti che il fascismo utilizza come aspetti positivi. Quindi nella parte che ho curato io sulle generazioni in conflitto, ad esempio, c'è una vignetta bellissima appunto sulla gioventù che marcia, e sotto appunto l'iscrizione "La bella gioventù". In realtà, guardando i volti di questi giovani che marciano, non sono tutt'altro che belli, sono brutti, quindi si cerca di mettere in risalto le brutture del fascismo anche in veste grafica. Scusami, una curiosità, ma poi l'asino è chiuso? Sì, poi l'asino appunto ha terminato le sue pubblicazioni, adesso mi sembra nel 26, comunque successivamente sì. alle leggi fascistissime. Sì, infatti. Questo, diciamo che voi avete preso delle voci degli antifascisti praticamente alla fine, perché poi sappiamo appunto che le leggi fascistissime, i giornali chiudono, loro certo. Scappano o emigrano oppure vanno al confino, eccetera eccetera, quindi diciamo che l'ultima volta in questi sì. anni che ci saranno loro che parleranno appunto contro il fascismo, quindi è sì. anche bello leggere, no, queste sì. le parole. Sì, sì, sì, sono estremamente significative, a mio avviso. Senti, Nicolò, io ti ringrazio. E davvero, l'ebook, ho dimenticato di dire che l'ebook è scaricabile sul sito della Fondazione. Gratuitamente. Esatto. Sul sito della Fondazione Feltrinelli, quindi è davvero anche una. È davvero importante, ecco. Non sì. abbiamo scuse per non leggerlo. Anche perché noi un po' ci siamo un po' impegnati in questo lavoro come storici, professionisti, però il nostro è anche un contributo all'antifascismo, quindi certo. e abbiamo certo. fatto un lavoro. Assolutamente. Certo. Allora, grazie e buon grazie a voi, pomeriggio. Davvero. Grazie Nicola, a presto. Grazie mille, a presto. Lui si sente veramente come un angelo che sente e che vola sopra ogni cosa e vive tra la gente. Lui non sa farsi vedere, lui non sa farsi sentire, ma ci prova ogni momento, lui vive fuori dal tempo. Quando ce lo ride, ci prova ogni momento, lui vive fuori dal tempo. Eccoci qua, tornate in studio dopo la bella intervista con Nicolò Panaino, che è mio collega con cui ho curato insieme a lui, insieme a Sara Toroglio e a Jacopo Perazzoli il libro, l'ebook scaricabile gratuitamente, Impresa diretta, la costruzione del fascismo in tempo reale tra 1919 e 1925. Io credo che se volessimo poi idealmente aggiungere una tematica a questo libro che manca, a 100 anni dalla fondazione dei fasci di combattimento e nella giornata come quella di oggi della contestazione al congresso delle famiglie di Verona, credo che proprio un tema per capire qual è il rapporto tra passato e presente nel lessico, nel linguaggio, nell'immaginario, nelle culture della destra, sia proprio quello del ruolo della donna e nella famiglia. È importantissimo in una giornata come questa capire, magari semplicemente come spunto da parte nostra, ricostruire proprio come certi diritti che sembravano acquisiti sia nella società sia nella famiglia oggi siano sotto attacco, chiaramente non solo da organizzazioni cattoliche indipendenti, come è stato per molti anni, ma che vede anche non più il patrocinio, per fortuna, ma il supporto da esponenti importantissimi di questo governo, nella persona del vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, il ministro della famiglia Fontana e poi purtroppo anche il ministro dell'istruzione Bussetti, che partecipa a questa, riconoscendola e legittimandola, questa manifestazione. Nel rapporto, nello studio del rapporto passato e presente della destra, quindi idealmente dovremmo mettere a confronto quanto la scuola durante il fascismo è stata cruciale come luogo di formazione, no? Dei futuri abitanti, delle nuove italiane, dei nuovi italiani, e quanto appunto è stata promotrice di una nuova cultura civica, soprattutto promotrice di modelli di riferimento per cosa era l'uomo, che cosa era il maschio durante il fascismo, che cosa era la femmina, che cosa era la donna. E in questo senso possiamo riconoscere una certa somiglianza dei ruoli della donna 100 anni fa per una cultura fascista e quella un po' descritta all'interno di questo congresso della famiglia, legato di nuovo alla domesticità, legato di nuovo al ruolo della madre e moglie, e comunque una lunga catena di diritti acquisiti di nuovo messi in discussione e costretti a essere difesi. Poi comunque si sono mobilitate in tantissime, compresa anche 400 ricercatori e insegnanti dell'Università di Verona, che secondo me è un dato molto importante, significativo, e poi la Società Italiana delle Storiche. Sì, Ale, la Società Italiana delle Storiche il 25 marzo ha scritto questo comunicato ufficiale. Io veramente volevo leggerne un pezzettino brevissimo che ci riguarda. La Società Italiana delle Storiche ribadisce la totale infondatezza scientifica del concetto di famiglia naturale e richiama la necessità che discorsi e iniziative politiche si basino e si sviluppino a partire dai risultati di serie e solide ricerche scientifiche, e non da prese di posizioni infondate e ideologiche. Ecco, se volete potete andare a recuperare questo comunicato della Società Italiana delle Storiche sul loro sito, anche sulla loro pagina Facebook. E noi mentre parliamo siamo a Verona, tutta la redazione di Vallun è a Verona, quindi anche noi nel nostro piccolo aderiamo a questa contromanifestazione, a questa 3 giorni di Verona città transfemminista lanciata da Nuna di Meno, da Bologna e da Verona per questa puntata è tutto. Noi ci sentiamo la settimana prossima sempre su Radio Città Fucico, sempre su Vallun, la vostra mezz'ora di storia, e alle 14. Ciao! Ciao! You said sorry.